più nulla, voglio appagare, se no che lo sai, i cani tagliano, come dice quello, tagliano. Ehi, noi ci vuoi buono, non ci bisogna appagare, voglio appagare tutto, quando non sono i figli e devo mantenerli, voglio appagare. E che gennaio è forte, perché, madonna santa, gennaio è un altro di bobo, ho tre mille di macchine. E un dolore della moto. E poi c'è concessione con un attimo della radio. E la rata dell'Ari, quindi non facciamo le radio, sono 72, più 15, più 5, sono lì. Poi 110 euro di televisore, sono 110 per 3, sono 330 euro. Di bolli di macchine, non bastano più questi soldi qua, non bastano più, è un casino, Penso che hanno portato le cose, che vanno molto, ma molto male. Sì, ho pagato a gennaio, perché annuale il bollo, quindi bisogna fare per quello, la faccia del televisore bisogna pagarla, io non ci vado a bui, sino quando adesso vuole un po' di fare la libretta sul carburante, intanto non c'è nessuno, sto pagando il prezzo, bisogna fare anche quello proprio, perché non c'è stato mio socio, non voglio dire che è un problema, quando siete stati a me, quindi io ho fatto il cambio, su acqua e perciò bisogna pagarlo, se no bene lì, ho pagato lì. Così è, ognuno, pagare. Allora io spero, questo per avere un po' l'idea, 730 di macchina, tra macchina e circolazione, 256, fai un portale, ti dà la linea. Ehi, ma se faccio la cena con la mia, vero? Ce la piange, ce la piange. Non ho neanche visto la precisa. Manco vista. Quindi non lo so, adesso devo partire. Non voglio fare quell'intervento. A Mondra, perciò. Anche i soldi, soldi. No vabbè. Non noi siamo nati per pagare. Ma come si può pagare se non vuoi? Così, 13esima, no, c'è ancora la data, 13esima. No, c'è una frittata al 19 dicembre, allo stipendio, siccome 27 la domenica, l'avevo fatto ieri, oggi cos'è? Oggi lunedì, stamattina. Ho sono passato le piano di fattare l'ufficio. No, un bel percorso, noi già sono regolari, noi 26-27, ci abbiamo stipendi. Perché ci sono andati, ci hanno fatto 19, anche il fatto 19, quindi ci siamo andati avanti con quello, ma non la giovane comincia, manca ancora la mia vita. Qualche cosettina, sempre ne esce fuori, no? Macchine, quello e quell'altro. Oia. Prima ti chiama e mi tocca ancora lo stipendio. 1380, più mi tocca la tredicesima. Io quando gli altri va. Mi ho trovato così, sta sempre con quei 10 giorni, 5 giorni, capito? Però no, noi si fanno tutti i mandati, 27 devono essere con la sessione in banca. Possono farli anche prima, però mi facevano le tredicesime, hanno pagato prima le tredicesime, quando voi 19, tu lo stipendio 27. Io potevo prenderlo, ma non fregava niente, non solo stamattina. Fatto a cappa. È un casino, purtroppo è così. a giudizio chiamare, ma non è che ci vuoi bruciare la tredicesima, no, no, ma state scherzando, no, giusto per, sai, io parlo in faccia. Sì, magari un po' di difficoltà, magari non è incazzato, non so, il periodo di Natale ci sono anche incazzi un po' indietro, c'è la gente un po' malorba, arrivano sempre a fine anno per fare i pagamenti, magari non c'erano tutti, quindi vi ho un po' lasciato indietro, ma già arriva. Discorso. Sì, pure ho fatto la forma, ho fatto il tutto, ho fatto il tutto con i microfoni normali. sull'MB, ma sull'MB me, l'M34 c'è anche lo stesso, sul coso, quello della Inter, che sulla M300 lo stesso, c'è già la scrota a 4, forse. con il microfono, ma non ha più problemi. C'ho tutto detto, ma conosceva già una volta lì, ero già affiancato. Poi c'è quello che l'avevo visto. Sì, invece mostro la mia maglia. Io stavo usando il 440 sopra civile con il microfono, ma non mi capisce. Non c'è nessun problema, perciò quando si vuole fare, si fa. Ma io mando a Bama Sanchuma, cioè il 7 di Rossima, K2G, quadribanda, che non è molto ingombrante, e nel radio, la buona in macchina. Isolamento, faccio, non c'è problema. E infatti faccio così, mi fa, lo faccio bene, una volta per sempre. Quando c'è fratello sarebbe lo fa come ho fatto io. Ma se lo stiamo facendo l'impianto, metti qua delle bande, da me, che mi deve è finita. E c'hai tutto, non basta, giusto. Dici che fatto. Ma infatti, tanto lo spazio, anzi lo tolgo fa le bande qua perché è a fianco alla 7004. Lo tolgo, lo tolgo. Lo paghiamo pure lì, avete ce che ne andiamo per sabato mattina, infatti io rientro 4, rientro lunedì, rientro lunedì. Ascolta a me, ti volevo dire un'altra cosa, mettendo il quadro in banda, bisogna mettere due appendoli, così Tu mi so io che è fresca, e per le due per le U. Se poi voglio usare l'HF svitto, non è vita che ho anche l'antenna per la 27 attacco PL, dopo la vita pure attaccata la base magnetica attacco PL, tu hai una cosa con l'HF perché è così lunga, no, questa è l'antenna 27, è uguale a quella che c'era Roberto Meccano, funziona molto bene quell'antenna, non ricordo di che marca è, se la REM, forse la REM. Smonto quella piccolina, la B10M della Comet, avvito quella lì e cambio frequenza. Non le vuole un, faccio una HF. Perfetto, un bel colpo ragazzi. Va benissimo, la stessa basetta che è pronta, ma la grande, sì, va benissimo. Si può fare così allora, sì, con la basetta lì che puoi utilizzare sia una di antenna o viceversa l'altra. Perfetto, va bene. Ricordate una cosa, il capo grosso mi sopporta l'alimentazione, di quei moschetti ne hai? Quindi se ho gli stessi cavi che ho tolto dalla Citroën, sono da 8 mm quadri, ma stiamo parlando di 100 watt, quindi non c'è neanche bisogno di mettere così grossi, ma uso quelli che sono schermati e c'è tutto. Nella Citroën ci avevo 300 watt modulati, quindi qua ne ho 100 perché non metto niente, ma la volta ci diamo anche. Come fai? Come fanno per l'animatore? Beh, ora io devono stare cambiando, c'è chi mette due moduli di antenne, c'è chi ne mette uno e usa le antenne HF di quelle affilettature che ci sono, quelle della Echo, quindi, oppure di quelle occhiello, sempre con l'occhiello Echo, dove Echo antenne e poi l'altra affilettatura, ma io siccome ho l'antenna per 11 metri e affilettatura, uso la stessa basetta, è anche grossa quella, è anche grossa, già tarata tutta, anche quella l'avevo comprata, non mi ricordo dopo, forse la Tunino anche quella, quando ci avevo l'Audi, sì, che stavo trovando un po' di antenne, poi alla fine ho trovato quelle, che mi ha dato Massimiliano, quelle corte, fiesta nera, che sono una bomba, quindi non c'è problema a fare. Roba, questo è proprio il negozio, non manca nulla a me. E allora se c'è il trovato lì si fa l'impianto, non deve essere fatto. Sabato mattina ci mettiamo e facciamo una cosa fatta bene. Mi stessa basetta per coprirle, così monto la B10M, la B10M della Comet, la piccolina siamo andata nel telefono lì, con un paio di madre del virus, quella ce l'ho sempre avuta in Lauri. Nell'altra macchina l'ha sempre avuto quella. Siccome noi lavoriamo sempre a metà ponte in diretta, qui c'è 100 watt, non c'è quello problema. Va bene, quella va ancora, che è piccolina, e poi l'altra quando devo sarà molto difficile. Ma capita qualche giorno, magari riusciamo, dice, beh, fammi questa via, via. Svito quella, vinto l'altra. E vamoci. Tanto io ho il microfono sempre in partita di TMF con ICOM, quindi il frontalino rimane fermo, fisso, non lo butti, cambio tutto il microfono io. Infatti, visto che facciamo così, guarda che va anche meglio, capito? E c'è una cosa più carina e tutto quanto. E cioè, è inutile che le metti quello lì, metti il quadro e banda in macchina. E la pizza, se non quello va meglio, ma noi per noi stanno cercando quel cacchio di scampo e mezza pallina, la voglio, cacchio, che sfoga, ma non è il mio, ma che fastidio mi dà anche, cioè, perché non mi lavora la mano in occhi? sapere che ne avrei avere anche io di quei morsetti lì, capito? No, fra me pare ci siamo settati, adesso mi vorrei riguardare perché sono dentro una busta, qua dentro il cassetto, l'ho tutti piegati, sono da 2 metri, da 2 metri, sono attaccati direttamente alla batteria, li avevo tirati bene dentro e piegati, li si apposta. Ci siamo settati, fra. Non ci sono neanche i mammucci, ci sono gli occhini già per la batteria, ma io ci ho messo un metro, mi dico la roba neanche. E se poi l'unità del 706 va a fianco alla batteria, dove c'è il cassettino alla batteria, non ci vuole niente, ci vuole proprio un metro di loro, neanche 50 cm, 80 cm di capo, perciò figurati con non neanche dispersione. C'è il fuggibile grosso da 25 ampere attaccato, c'è tutto, è già pronto l'impianto, dobbiamo solo attaccare con la basettina e mettere bene sotto la moquette il cavo dell'antenna che arriva davanti, basta, non dobbiamo fare altro. Cioè qui la CB diciamo tipo stiamo parlando già del professionale, quindi la modulazione che hai è micidiale, proprio chiara, bella, perfetta, senza un briciolo di niente, capito? E vabbè, diciamo che a livello microfonico è tutto un altro pianeta questo qua, non c'è niente da dire. Sono microfoni che fanno la differenza dagli altri. Poi chiaramente, ripeto, io ho il mio modo di lavorare in radio, gli altri hanno il suo. Questa gente che è fissata appunto con i microfoni amplificati, che però sono i microfoni un po' così fatti da gatti, non è che la modulazione sia bella. C'è qualcuno, col pane più tre, insomma, ha una buona modulazione, ma stanno parlando sempre di cose totalmente diverse da queste. E poi sono quelli che sono fissati con la carecca. Va bene, va bene. Poi ho telefonato a quella persona, stavamo parlando sabato. Per capirci, quella roba là non interessa. Interessa e quindi non lo so, sono un po' così. Ma la cosa là è nuova, già lo sai, no, non ci sono problemi. Te l'ha spiegato, no, la persona lì. Sì, ci ho parlato stamattina per. Ma sai cos'è, fra? Che sto iniziando a fare troppi doppi. Sto facendo troppi doppi. Quindi volevo fare non una permuta, perché non posso farla una permuta, però insomma agevolarci un po' tutte e due, invece io mi ritrovo con un altro in più e in più devo anche spendere altri soldi, quindi sono un po' così stantio, non so neanche io cosa fare. Vabbè, gliela parliamo di persona, mi dai un consiglio? Allora, vabbè dai, qua non troppo su io. E parliamo di persona perché forse a me mi interessa un 44, mi interessa, se riusciamo a procurarlo, e poi vediamo un po', dai, già ne parliamo, non ne parliamo qua, ne parliamo in verticale, che è meglio. Sì, ma no, ce ne parliamo in persona. No, ci siamo sentiti stamattina, lì stavamo facendo le chiacchiere, eccetera, e anche lui vuole realizzare soldi per prendere insomma qualcosa di meglio, eccetera. Detto anche io, ma io posso spendere solo soldi e mettermi in casa una radio che già ho, capito? E quindi ci siamo capiti, ma siamo rimasti d'accordo, vediamo un po' se si riesce a combinare diversamente. Ci sentiremo adesso questi giorni, a fine settimana, non lo so. Andiamo a trovarlo, vediamo un po', là. Già ne parliamo di persona. E 44, ho detto, non sono problemi. Lui è in possesso anche di un 45, non di un 44. A me il 45 non piace. Io ho avuto, non c'è il 45, io ho 85, 450, 850, ma sono delle radio che non mi danno nessuna soddisfazione. Preferisco sempre il 430, il 440 rispetto all'850 e al 450. Ecco, hai detto bene. L'ho avuto anche io e ti posso dire che non mi ha soddisfatto per niente. Non ho pagato un sacco di soldi, però lo sai, no, non vanno bene qua. In questa determinata frequenza è zero di porto zero. Sì, la modulazione è una modulazione un po' così, un po' sembra molto aperta, molto chiusa. Ha delle tonalità medio alte, con nessuna non accenna a toni bassi. Io ho provato di tutto, sono stato giorni e giorni lavorando sul sottomenu, sul menu, ma non, le soddisfazioni non c'è. Anzi, ti posso dire che qualcuno mi aveva sentito volte 50 ed ero già riuscito a portarlo a livelli buoni rispetto ad altre persone che l'hanno usato. Lo conosco molto, molto bene, però non mi piaceva, non era per me. Ottimo ricevitore, però come trasmettitore per la M non era. Per il resto sì, per le bande laterali e sia in banda laterale, che in AM, che in FM, che in cicloppio, da tutte le parti. E quindi rimango sempre su una luce, ho capito. Mentre quelle che devono lavorare in HF come il 7004, il 706, quello che lavora in VLU come 910H, quelle sono cose a parte. Quelle sono radio a parte. Ma le HF e CIVIO devono lavorare tutti allo stesso livello, se no è inutile. Sure. la linea completa, capito? E però c'è tutta la linea così, quando c'è l'attività c'è tutto quanto già pronto. E basta, poi per il resto non mi serve altro. Vediamo un po' se riesco o riusciamo magari a beccarne anche qualcuno che funziona bene, chiaramente poi se è trattato il carcasso non mi interessa, quello già lo faccio io, lavoretto, capito? Ci sono problemi. E mi stava parlando appunto un anno che lui ci aveva un 430. Nanni ha iniziato con il 430 quando l'ho conosciuto io. Lui aveva venduto il 430 e aveva preso il 950 che se l'ha tenuto per anni. Ma in quell'epoca il 430 ce l'avevamo io, lui, Marco 131, poi vabbè l'altra ce l'aveva, mi pare che Marco Scorpio. Sono dirigente il 430, ma l'avevamo preso tutti a distanza uno dall'altro, a distanza uno dall'altro. Ricordo se l'avevo visto da Marco, o da chi l'avevo visto, mi era piaciuto perché avevo il 757 GX2 della Yaesu, linea completa, radio molto interessante, anche quella che non ho più trovato, mi piacerebbe averla di nuovo. Io al posto di un 140 che mi offre e potrei dare perfettamente una, che sono nuovi, dare un 140 e vedere se riesco a trovare a Landifiera un 757 GX2, però è la seconda serie, non 757, normale GX2, che era molto interessante, aveva tutta la parte dei filtri, andava molto bene anche in M, con l'abbinamento dell'MD1B8, il microfono praticamente che è simile all'MC60 però della Yaesu, che ho dato io con 920 a Franco. Quindi l'MD1B8 con 757 GX2 va molto bene, anche perché c'è il processore, quindi lavora molto bene sia in AM, in FM, in banda laterale, a tutte le parti. Quello c'è un ottimo ricevitore lo stesso. Sì, ho capito. Ma se stavo guardando appunto di questa radio qua, che ci sono andato sul sito Radio Amatori, mercato del Radio Amatore, e ho visto addirittura una linea gelosa, la linea del geloso tutta valvolare, tutta completa. Sì, anche le linee gelose erano molto belle, però sai quale sono il problema di quelle linee lì, che se non fino a valvola fai danno sulla parte del finale, trovarlo non è molto facile, io qualcuna ce l'ho ancora, sono le 6-8B6, mi ero preso di scorta con la linea break perché la stadio finale era uguale appunto a quella della linea gelosa, mentre quelle della linea Collins, quelle sono un pochino più costose, sono anche difficili da trovare, capito? Certo, allora quella linea lì babba all'epoca, tuttora va, perché se guardiamo le caratteristiche, babba 50 watt modulati quella linea lì. Come gente, quella della linea Coli se ne dà 250 modulati, 250 picco modulati, proprio eccetera, là in modulazione se fischierà ancora di più, però rischia il picco massimo di crepare la valvola, perché sono valvole che tengono 150-200 watt, capito? Siamo lavorando in serie, perché c'è il preaccordo, quando devi andare in trasmissione devi fare il preaccordo, aspettare che il preaccordo sia fatto e poi vai in trasmissione, perché se sbagli il preaccordo non c'è accordo, quindi non esce la radio. Non è facile usare quelle linee valvolari, io imparai a suo tempo dalla buon'anima di Antonello Filippini, che mi insegnò appunto ad usare le vecchie linee valvolari. Infatti a suo tempo mi regalò la linea Uniden, che poi ho conosciuto con la nera, con bestione nero, che poi l'ho messa da parte, che è ancora lì a carbonato dentro una scatola. Ah, cosa succede quello lì? Sì, dice il trasmettitore, il ricevitore, simile alla linea Drake, però della linea Unilen, c'è il ricevettore, il trasmettitore, c'è anche le fotografie che ho fatto, c'è il ricevettore, c'è il trasmettitore, il ricevettore, il VFO esterno, no? Però separare il ricevettore dal trasmettitore e la colonnina esterna. Ho capito, praticamente era quella linea che non andava, ma avevi due tubini della Unilen, no? Ricordi? Sia quella del ricevitore, quella sono conservate in Foscat, sono messi gli FBC. Quindi non so funziona, basta mettere la nuova e funziona. Non lo la metto, cazzo, cioè tu hai visto come ho organizzato adesso. Un piano tutto sotto, che è già lungo quanto è la scrivania. Ok, tutte le linee, una parte delle linee Kenwood. Il secondo piano, la seconda parte delle linee Kenwood. Poi, il terzo piano, ci sono tutte le linee, come cosa gli devo fare? Pulimi la cara, va, che c'è un microfono. No, assolutamente, qua. No, va bene così come l'ho organizzato. Ma anche a me, guarda, tanta roba non mi è mai piaciuta un problema. A voi, molta roba, poi, non utilizzarle. Vabbè. Solo spazio a prendere, basta. Ingombrante, ma c'è la radio giusta per le cose giuste, va tutto bene. A parte che pulisci, vengono trattate anche meglio, la polvere ci vede, va lasciata di passare il traccio, il sotto, diciamo. Quando c'è troppa roba, diciamo così, con radio una sopra l'altra, questa, cioè, a parte che la radio non respira, quindi non risaltano moltissimo anche di quello. Poi per pulirlo ogni volta che tutto la radio, mettere appoggiarla, arrivate lassù, è un lavoro qua. Te lo dico per esperienza perché è un lavoro, è un lavoro. Io ci vedo tutta la radio così, passo una sopra l'altra e non va bene, non va bene. La radio va bene, è tutta la linea completa. Di lungo, non basta. Però mettere sopra l'altra, come hai fatto tu, vedi, tu hai fatto un bel lavoro lì con la messolina. Io ho fatto un bel lavoro, lui va benissimo, ho organizzato bene perché ti viene bene anche a pulire tutto quanto, capito? Tutto lì, e non c'è questo radio, non c'è quell'altro. Ma c'è anche un bicchiere, la chissà messolina, diciamo tu, quella è in un libro, me l'ha fatta il grande maestro, Giulio Lolla, è un grande maestro facendo altre cose, è un grande, bellissima. Proprio perché ho detto fai un piano per maestro lì, fai per me a chi deve essere grosso e non deve imbarcarsi. Infatti se tu prendi in mano quell'affare lì lo vedi, è il vivo quello. E poi gli ha dato il colore della che si addice alla scrivania, capito? Noi è pure lì un colore diverso. Infatti volevamo metterli i piedi in legno. In legno, ma no, in legno non mi piace, le metti i piedi in ferro, quelli che usano per il cosiddetto. Ci sono sta marcata, li ho comprati, io sono rotondi, ho trovato i quadrati. Ieri il lavoro è venuto a regola d'arte, però se io dovessi ancora sollevare o farmene fare un altro simile a questo, posso allungare e mettere di lungo la linea Drake sotto o sopra, che è più grande, la linea Sommerkamp, poi c'è la linea Collins, poi c'è l'altra linea Sommerkamp 101 ZD, poi c'è l'altra linea Unilever, dove me ne vado io? O sei, quattro di quelle linee ci vogliono altre due scrivanie. E qua, ma in definitiva sì. No, ma adesso è tutto così. Allora, adesso sono letto qua, tra permettere tutto nelle radio devi avere un po' di spazio, devi avere quelle scrivanie lunghe che fanno l'angolo, allora sì, che ti metti tutta la radio in linea, con la sedia, tu non ti sposti una radio all'altra, però c'è un lavoro, è sempre un lavoro. No, non mi interessa più, fra, non mi interessa più. Muoverò nel modo più assoluto, la lascio stare lì dove sono, quando muovo le darò in donazione a qualche associazione, perché sono linee molto belle, nuove, soprattutto trattate sui microfoni anche da tavolo. Se vedi il microfono della linea Univen è uguale al Turner P3. E il Turner P3 è solo anche che se c'è scritto Turner c'è scritto Univen, quello. Quello della linea della cosa, della linea Drake, lo stesso, è simile al Turner P3, si assomiglia molto all'MB più 4, al microfono, un po' tondeggiato così, e c'è scritto Drake, la stessa cosa, cioè tutte le cose fatte bene, che ho usato per anni, anni e anni, e ti posso dire che i valvoli li ho bruciato molto, molto poche, molto. L'unica cosa che avevano fatto è quel fulmine se tu lo lasci acceso durante il giorno non è come quello a transito che si scarica subito e via. La mia valvolare rimane in tensione per ore e ore, capito? Evidentemente quando è caduto il fumo la linea era ancora in tensione, quindi ha scaricato dentro, mi ha bruciato la parte dell'ingresso nello stadio finale. Siccome la valvola ha fatto un bel danno, l'unica cosa che avevo fatto. Ma per il resto non ho mai avuto nessun problema. Sono molto belle da avere in stazione, cioè, se metti quelle fra qua arrivo alla porta, cioè, ma non fa, qui sono belle per fare delle foto di stazione, perché ti riempi moltissimo, ma già è pieno così, lo sai, giuri qua. Thank you. rispetto a quella serie di prima. Volano passo da questa, quella del computer, ci hanno messo, questa c'ha i manioli, e poi c'ha l'uomo, c'ha tutta la stazione. Quella invece è un pochino più da ufficio, da computer, diciamola. La piccola l'ho presa assieme, ti ricordi? Io c'ho quella piccola blu e quella grande blu. Un po' ce l'ho. Quella nera, una blu e una nera qua. Ma vero, te l'ho presa nera, no, io ce l'ho tutte e due blu. Ce l'ho tutte e due blu. Io la vanno bene. E poi ci vogliono le ruote, quando uno già inizia a avere 3-4 metri di scrivania e si deve spostare a destra e sinistra. Addirittura c'è due scrivanie accoppiate, più il piano dove ci sono gli amplificatori, e quindi necessita per forza di due serie, perché una fa, però è distante, capito? Non sono come te lì, tutte e due attaccati, tu con Teresa, io quando ci si rianno all'aria sono attaccati da me più di un metro, il computer rimane in fondo. Già facciamo il lavoro qua, qua sul tavolo la roba che c'è, e in questo coso qua ci metto l'unità, lo sai quanto va con la media? A me invece ho tutta la scrivania per i bratti lì. Ma se va davvero, fra. Antonio. messa veramente bene, prima ce l'avevo appoggiata lì sul tetto, sembra ci sono larghi, la scaletta sopposta, ha controllato il pantonio e stavo volando alla grande in 20 metri, sto facendo coraggio, quando mi metto non c'è un amplificatore, figo. E in 80 lo stesso, 80, 40, in 10 sto lavorando pochissimo. Dopo questo ho ancora la spirita che vuole consegnare, perché la settimana ancora quello che serve, c'è un bel 50 mega anche, mi dico sempre. Infatti, io cosa ascolto? Io qua il problema c'è così, anche questo ricevitore cosa ascolti? Se non c'è antenna, voglio ascoltare la radio, non posso ascoltare. Ma ci sono discorsi importanti che mi interessano e non li ascolto, ecco quello è il casino. No, ma perché quello è un tipo di studi per... Non è un tipo di fortuna proprio per ascoltare, per fare, ma se vuoi ascoltare bene, devi avere anche un tipo che ti consenta di, almeno che sia banda per banda, cioè se tu hai un tipo per i 40 metri, cosa pretendi ascoltare a 80 metri come ascolto io? Non ho il vicino. Se invece hai un tipo per ogni banda, 10, 20, 40, 80, allora il discorso cambia perché hai già l'accordatore, quindi accordi la ricezione, la radio, la senti bella, bella chiara, soprattutto con sia, guarda questo, guarda questo. Basta, chiuso. Capito. No, io ascolto 250 watt in mano alla sera, la macchina e mi spinge bene. I suoi 60-70 watt li eroga molto bene, li eroga molto bene la M, l'ho proprio fatta sentire. Poi c'è una radio omicidiale, un processore allucinante, va molto bene. Faccio proprio così, mi sono andato a fare una bella io c'ho la scrivania tutta libera qua. E vabbè, un bel discorso quello, vedi. Subito tutta quella roba si stacca e si porta tutta là, lascia già la presa e correndo qua. E non ci vedo di te, guarda il rientro di RF qua. Tutti questi cavi, tutta quella roba lì si porta tutta là. C'è da farlo qua, là, lo facciamo, sì, sì. Ma facciamo sì, anche perché quel barattino se lo puoi togliere da lì e mettertelo all'angolo e stare tutto, lavorare tutto su una scrivania, no, spostarti a destra e a sinistra. Guarda, quando vuoi, io ho quella scrivania che c'è in garage, è nuova nuova, c'è il cassetto dove li può mettere le cuffie, può mettere tutto dentro, ordinato, come fa lei, e lavora benissimo, e lavora benissimo. Allora, alla grande, le faccio il trasferimento da lì, la unità gliela portiamo dall'altra parete e lì a posto. Infatti faccio così, faccio proprio così, mi hai dato una bella idea. Sì, sì, così che c'è l'unità con la parte mia non mi turba nessuno. Quando vanno lì si sposta leggermente, più là si sta giusta e giusta la scrivania. Ma anche lì più bellina rimane. E lo faccio io con le radio là. Qua posso allungare con tutta la linea, l'alimentatore me lo porto lì lo stesso. Capito? L'alimentatore numerato lo porto lì. Certo puoi allungare, stai bene tu e sta bene lì. Ma infatti come ho fatto io? Come ho fatto io, siete troppo attaccati, non va bene così, anche perché è vero, non ci ha fatto più il mouse, tutto all'angolo, delle colonnine, tutti i vari doti, tutti i muri, tutto di traverso, no? Lì, lì c'è tutto davanti, come c'ho io, monitor con le due colonnine. Davanti al monitor, la tastiera, davanti al monitor, il mouse, tutto. La scrivania a parte solo esclusivamente per il computer. E tu vedrai quanto state meglio tutte e due. Siete troppo attaccati così fa. Io ho due io di porta computer, due ne ho. Uno è qua a casa, l'altro è in garage. Quindi, quando vuoi, basta fare un fruscio e lo facciamo. Ci vuole, guarda, mezz'ora di buona volontà a farlo, non c'è nessun problema. Dai, la facciamo così, così, risolvo questo problema. Aspetta un attimo, io quindi, eliminando le comunico, recupero, più tardi, ma più, 60 centimetri, 60 centimetri lo recupero. Quei 60 centimetri dicevi tu cosa vuoi mettere. Io ti posso riempire tutta quella scrivania, come vuoi tu, senza nessun problema. Te la posso riempire tutta, perché nel radio da riempire con la scrivania ce n'è da aprire un negozio, ovviamente. Faccio tutta la linea, con tutta la linea volevo fare. Addirittura l'idea mia sarebbe stata con l'acqua. L'idea mia volevo fare tutta la linea, l'avevo visto con la radio là, fino al muro di qua. Eliminare da lì il computer, togliere il computer da attaccato a te. Se fosse come sono fatto io, cioè come ho fatto io qua, allora già sei più organizzato, va molto meglio, perché io da dove sto trasmettendo adesso, dalla prima scrivania alla seconda c'è un metro circa. Capito? E quindi non mi disturba mai chiunque si mettesse a lavorare al mio fianco, è distante un metro da me, ma tu sei attaccato talmente tanto che non può fare niente. Quindi l'unica soluzione è togliere il computer da lì, spostarlo su un'altra parete con una scrivania nuova che io te la posso dare tranquillamente. Mi faccio spazio da ci vediamo là. C'è spazio dove c'è, dove c'è. Guarda, non viene mai se ne va a se vedo per le palle io vado a fare, vabbè, no, non la posso fare perché c'è questo libro, se non ci fosse stato questo libro a letto che c'ho qua, avresti visto che l'avrei fatto, l'avrei trasportato, la stazione è tutta aglio. Ma che dice, ne dovremmo tornare, capito? Ce ne dovremmo tornare. Quella stanza lì era a fare a Salottino. Perché se l'avessi avuta io quella stanza in più, come c'hai tu, io mi avrei messo un salottino per ricevere gli amici e basta. Quel divano letto che c'è lì, quel divano letto che c'è lì, io l'avrei messo nell'altro salotto. Lì avrei fatto un salottino, ok, morto, per ricevere le persone, quando c'è radio, eccetera, vieni qui, che la stanza sei lì. E quel divano letto l'avrei messo nell'altro. un'altra stanza. Perché rimane sempre il fatto che lì ci sono delle radio, quindi chiunque dorme o chi ne usufruisce di quella stanza, quando c'è gente tu non puoi usare le radio, quindi è sempre un handicap della situazione, no? È male organizzata la cosa, e io l'avrei fatta così. Yeah. garage. Non è che allunghiamo tutto e risolto il problema. Certo. Grazie, io sono la barretta matrice che era più bruciato lui, scambiamoci. Eh? Io penso che lì ci poteva anche ballare sopra, non penso che ci muci a ciavanca. Senti, se tu avessi avuto una parete nuova la via, ci mettete quel piano aperto, lui ora sarebbe uscita la stazione, ballarella sarebbe uscita. E lì tu non c'è, se avessi avuto, mi sa quanto è grande questa camera qua? A me sarebbe interessata quella, mi fa. Sarebbe interessata quella lì, con quel piano ci abbiamo sceso in garage, no? E siamo fatti uscire a gamma. Dice che è strascino di ghiaccio grosso da 10 centimetri, come ne avevi, no? Un piano di quello è tutto aperto, non chiuso, ma tutto aperto, un metro a parte, un metro all'altro, è da 4 metri di piano, 4 metri di piano. In più è largo 110, fate il conto, anzi 120 largo, a Genetano è radio sopra il microfono, io mi sono simulato, diciamo. La bella stazione sarebbe uscita, ecco. Sarebbe uscita la cosa bella però non la può vedere. Qua, hai visto, lo volevamo mettere qua, però il problema c'è qua, che è troppo largo, porta via un bel spazio. Invece come è fatto adesso il piano che era 90, è ottimo così perché io ho sotto sopporcato, quindi mi ci stanno anche tutti i microfoni in fila. Invece quella là veniva troppo larga, l'avevo misurata più. Se no, quella tutta aperta, allora sì, ci avrei fatto un pensierino a mettere tutte le linee valvolari. Quindi sì, ci avrei fatto un bel pensierino, ma va bene anche così fare. Ho abbastanza ordinato, l'aria ce n'è, e basta, ne avanza. Come l'hai organizzata adesso, è bellissima quella stazione, sta scherzando. Poi non abbiamo mai visto stazioni, ho visto stazioni, io ho visto sul sito radiomatori che c'è gente che non c'ha niente, vedi, radio, gente che buba, che dà un casino di andare in stazione. E sono state tutte ordinate così le stazioni. Non vogliamo un po' vantarmi, però mi hanno qualificato il terzo, quindi va bene così. Va bene così, va bene così. Con le mie poche possibilità mi hanno dato il terzo. Sono più che soddisfatto, guarda. Con tutto che io poca attività amatoriale faccio, quindi non è che... Però sono appassionato di radio e quindi mi piace averle tante, tante, tante. E soprattutto organizzarmi molto molto bene perché sono molto pignolo, tu lo sai, perciò le cose le faccio bene, non è che guardo lì a stare, prendo le viste, controllo se ci sono modelli e posizioni di vecchi animatori che facevano io quello me l'ho fatto io carbonati perché l'ho costruito io, ho fatto tutto da me, quella foto che poi c'è nel sitare che nel 2010 adesso sparisce e mettiamo questa nuova. Non c'è stato il tempo per poter cambiare il sito, adesso lo prendo in mano Massimiliano e me lo sistema. Quello me l'ho fatto io, l'avevo copiato una radio rivista dell'Ari, con tutti gli scompartimenti, i piani sopra i vari, quindi sono già tre, qua sono due. Se io sollevo di nuovo come lì, viene brutta perché... Eh sì, è larga tipo quella, perché il piano è lo stesso, forse leggermente più corto, questo mi ha fatto Giulio. Però viene brutta perché le radio sono troppo grandi, invece lì le avevo suddivise in tre piani, quindi quelle molto pesanti sotto, quelle medie sopra, che c'è la linea 3, la linea 1 che erano sopra, e tutte le linee dei 140, 680, 430, avevo, non ricordo. Comunque ne avevo parecchie, che sono queste, tutte sopra in alto, capito? Ma negli MC60 ne avevo 12, lì, 12. Qua ne ho 6 in posizione, uno che va a te sono 7, altre due sono dentro l'armadio, più gli SM20, quindi siamo lì e non è che ha cambiato molto. Ho eliminato alcune radio che sono rimaste lì a carbonate perché... non la voglio fare così come la prima, capito? Fra, se ti ricordi abbiamo recuperato circa 40 PL e 40 spezzoni da dietro con i piani che c'erano lì, se ti ricordi. Sì, mi ricordo. benissimo. Quel piene che ho recuperato perché doveva essere una cassetta di soldati, l'avevamo, e poi sì, l'ho tagliati, boh, non me lo ricordo adesso. Sono stati tagliati di soldati. Li avevi tutti tagliati con la tronchesina, per fare in fretta. Per fare prima, non per fare in fretta, ne avevamo fretta. E poi una domenica in pre ce l'avamo seduti, la casetta l'avevamo tutti di soldati, puliti, con la terra e tutti messi dentro la cassettina. E poi una parte ti levati a te. Quelli anfano ce li avevamo divisi un po' a te, un po' a me. Infatti più sopra la calata ce l'hai anfano, quella dell'altra ce l'hai anfano, i due ingressi ce l'hai anfano, quindi sono due, due, quattro, e ho 5-7 ne avevo. E gli altri ce li ho io. E poi gli altri li avevamo tutti messi dentro la cassettina, quelli imbattiti, quelli in pratica ce l'avevamo tutti buttati. Infatti, quella nella stazione che io ci ho fatto, la 275, gli RG58, ci ho messo quel piede in macchinite proprio, quelli buoni, capito? E fatto, se tu vuoi dici questo piede, ma mentre vado a fare, ti faccio vedere come ha fatto il piede con la macchinetta. Mi ha messo la macchinetta, mi diceva, me la fai vedere, non me la fai vedere la macchinetta, perché io avevo comprato il kit del tagliacavo. Che c'ha tutte le misure, c'ha l'RG 58, il 59, il 213 che è leggermente più grosso della Camille, poi la Camille, e quello lì per spollare il cavo ce l'ho io. Poi c'è quella prescia per presciare gli occhielli, l'avevo comprato tutto il kit, c'ho, però questa per fare il PL non ce l'ho, per il server. L'ha trovato da nessuna parte. Aveva recuperato io della pinza, ma ce n'è qua in circolazione, faccio vedere una cartiera con la pinza lì, come che quella mette la stagna, tutta la sola qua. Devi vedere che la faccia alla curva, no, ha fatto a mano, proprio fatti i perfetti. Quelli che ho, quelle ispezioni che ho io, industriali, che ci hanno, sono presciati con la fare in alluminio, così li fa. E che sai quel piede che fanno oltre la plastica nera dietro sulle RG58? Ah, come quelle ispezioni che avevo comprato in fiera, sì, vuole quelli. No, era quelli, però che fa la misura sottile, con le sue cose la misura più larga. La misura per il 2.13 e la misura per le RG58. Ma così, entro i tuoi soccalchi, per me metterla lì, il cavo non può far passare, con questo cavo davanti, che è bruttissimo, c'è tutte le plume che passano dietro, davanti io non ne ho il cavo, già l'hai visto, io non ho niente davanti, ho solo i microfoni e i cavi, non vedi neanche un cavo del microfono, lui sono i microfoni, ma come sono alimentati, niente, perché le plume dei microfoni che sono tutti fatti a misura, sempre per fare questo tipo di lavoro sopra il capo, le radio, passano tutte dietro, entrano da dietro le radio, non da davanti, perché altrimenti ci sarebbero tutte le calate dei microfoni davanti e esce una gagliarda, no, non sono cose da vedere quelle. In definitiva sì, si faccio così e poi una volta che lo facciamo, qua vediamo un po' cosa, il metodo migliore la si può mettere lì, per continuare quella fila lì. Ho quella altra linea, la lascio là, dov'è, che non mi dà nessun fastidio lì, dov'è quella, perché quella messa qua, la metto qua di linea, è bruttissimo, perché ci sono sempre quel problema famoso che tu sai dei capi, c'è sempre quel problema lì. Ed è brutta da mettere su linea quella roba lì, quindi non ne vogliamo mettere di quella linea qua. No, fra, con l'alimentatore il lavoro lo faccio io e lo faccio io come va fatto, perché io quando prima di usare 10.50, quando avevo i 4 alimentatori sui C, ne avevo 4, erano tutti allineati sotto una scrivania, sempre nel piano dove adesso c'è l'amplificatore, allineati lì, i cavi entravano da dietro per alimentare le radio, da dietro, non da davanti. Il lavoro bisogna farlo sempre retro radio, non mai davanti, perché se tu lo fai davanti è bruttissimo. Io avevo tutte le prolunghe dei cavi di alimentazione, erano tutti passati da dietro la scrivania. E non c'è nessun cavo che ti possa impedire niente, come adesso la stessa cosa. Vabbè che PS50, le cellule di linea, l'alimentazione ce l'hanno da dietro e hanno praticamente il cavo che esce già dall'alimentatore e va a collegarsi alla radio, capito? Però lì, siccome lo progetto io quel lavoro, lo faccio io come lo faccio uguale a questo, preciso identico, non cambia niente. Bisogna farlo, mettersi e fare una cosa, va bene, perché lì dietro c'è un casino della Madonna. E poi addirittura quel contatore glielo fa un altro vaporetto, allora fa come il primo lì e faccio un altro vaporetto, poi come quelli accordatori, no, non accordatore, uno di quei contatori di quelli a due, che tu c'è per cosa mi serve, no? Nessun problema, di radio, di strumenti, di tutto quello che vuoi, o roba babri di luzzi. Purtroppo non sapevo neanche di averla, sinceramente parlando, ma ricordavo che avevo una cassetta piena di roba, ma non pensavo ci fosse tutta quell'attrezzatura, tra l'altro anche buona, in ottimo stato. Tu ricordati che io comprai quell'HQ1000 nella Midland da Citieri, che cacchio di marca è, forse nel 90 o 92 da Torino, mi vendeva lui quei barragioni di strumenti grandi che sembrano arrati, e non sapevo neanche di averlo, figurati, ma adesso me lo sono trovato anche le mie fotografie che avevo fatto, perché facevo un po' di fotografie alle radio per poi avere un ricordo, magari non ce li hai più come il 102, la linea digitale del 102 che era favolosa, c'era la radio grandissima con la radio, che si vede anche nella foto, più grande anche del 940, poi il VFO separato e la colonnina. MC1B8 mi pare che fosse con un microfono, perché l'MC1B8 era quello dell'altro Yaesu, e quella era transistorizzata la radio con lo stadio finale a valvole come l'830 prima del 940, l'ho uscito il 930 e l'830. finale a valvole, però erano transistorizzati. Delle grandi radio, dei grandi bestioni che però alla fin fine li dovevi usare solo esclusivamente in banda laterale, perché in M facevano solo schifo. E certo, erano apparecchi radioamatoriali, sono alterati per quella frequenza lì e buh. In banda laterale, ma io allora avevo la patente speciale e quindi non le potevo neanche usare in HF, però ce li avevo già. Poi quando presi ordinari, allora ho iniziato a fare esperienza, a fare passaggi eccetera, insomma, vedere un po' come si usavano. Li usavo, ti dico che li usavo anche molto molto bene, perché in quei tempi molta gente usava tutte quelle linee valvolari lì, si lavorava molto con le linee valvolari, poi pian pianino si cambiò sul transistorizzato, sul digitale, sulle cose, ma di analogico c'era poco. Allora le radio erano quasi tutte a scala meccanica e quindi dovevi anche, insomma, imparare soprattutto i punti di riferimento che la scala meccanica tirava per far sì che non uno era una frequenza o non era l'altra. Orecchio, no? Orecchio. Come sintonizzavi la ricezione, sapevi già che il corrispondente era in quella frequenza, che quindi eri in perfetta esonda e potevi tranquillamente trasmettere, facendoti capire, se no ti viene di pure non si capiva un cacchio. E a parte che le frequenze erano già numerate, sul commutatore c'avevi 20, 40, 80, capito, e via dicendo. Non erano come queste adesso, come gli HF di adesso, che schiacci, ticchi ticchi, sei già lì. Faceva la ta. E purtroppo non c'erano frequenzimetri, fra. Non c'erano frequenzimetri. Tu immaginati che la linea Drake che c'ho io, che poi feci cambio con quella di Walter, tra l'altro, perché lui non c'aveva quella modificata, ma è Carlo di Chiaramonti, sul ricevitore della linea Drake, sul ricevitore, mi aveva messo il frequenzimetro, quindi eliminata la scala meccanica, e mi aveva inserito il frequenzimetro, ma bello, bello, un bel frequenzimetro verde del colore dell'altro, del trasmettitore, perché la scala meccanica del trasmettitore era verde. Ma cose allucinanti, faceva dei lavori allucinanti, adesso non ne ha più voglia, non. Lui da quando era molto figlio si è un po' staccato anche dalla radio, e se n'era anche andato a scuola, l'ha chiesto il professionamento, perché il colpo che ha preso era allucinante. Era allucinante, era molto figlio di scienze ferrale, e quindi, ma io mi ricordo quando era in attività, queste cose se le giocava, proprio se le giocava. E lui diceva sempre che avevo una grande passione io per le linee valvolari, per le linee vecchie, le radio di grande generazione. E non ero neanche radioamatorio, infatti avevo un buonissimo rapporto, era una persona, ero tuttora una persona che io stimo moltissimo, e ci sentiamo molto spesso per telefono, sono un po' che non lo sento perché. E quando sono stato più male io non ho avuto anche problemi a casa eccetera. E infatti lui mi dice, ma perché non provi a dare gli esami, anche perché sei appassionato, così puoi tenere un po' più, ma caro, non ho voglia, non il periodo proprio della scuola alla grande, quindi ero impegnato in altre cose. E sinceramente ho giocato anni di birata. Poi quando ho avuto la mazzata che era venuto il controllo a casa, che avevo 26 HF, e ci sono spaventati. Io ho conosciuto quella persona che tu sai, e mi ha detto, ma scusi un attimo, ma con tutte queste cose che cosa ci vuole fare? Io scrivo come piace, allora male, via gli esami. E aveva convinto anche lui, era andato e me l'avevo preso. Infatti poi la seconda volta che era venuto, perché c'eravamo anche sentiti in radio, quindi lì siamo diventati molto molto amici. Ma erano bei tempi, fra, allora si usavano quel tipo di cose, si facevano tante cose. Oggi puoi avere 100.000 radio, ma intanto devi accendere sempre una. Ma definitivamente, ma sai cos'è? Il bello a verle. fai tu, come fa Walter, come fa Nando, come fa Andrea, come fanno tutti. Ognuno c'ha la sua radio con le sue frequenze, è cosa ti voglio dire. Sono cose belle da avere, io adesso al prossimo anno, se Dio vuole, te l'ho detto che comincio ad andare passata a febbraio e poi voglio ottenere quel pezzo di carte, dopodiché mi metto attività anche io. Ok. È così. Cioè, è una cosa bella, a me piace moltissimo. Io sono un grande appassionato di radio, mi piace averle tutte, possibilmente tutte. Se avessi avuto il posto per poterle tenere, ne ho tante di radio, tu lo sai, ne ho tante. Però mi sarebbe piaciuto averne ancora di più, ma non a livelli come già come inizia, bisogna proprio avere delle stazioni, la stazione poi organizzata in una maniera tale da avere tutte le radio sotto controllo, capito? Quindi una parte HF, una parte HF per dire ecco volare, una parte HF transistorizzata, le varie linee che mi piace avere come ciò, perché ti ripeto non è che sono indietro nessuno, ne ho abbastanza, forse più di tanti altri che pensano di averne. Però mi piacerebbe averne ancora di più. In quei tempi lì, io ti facevo le fotografie, ho sempre avuto linee valvolari. Io usavo anche il 27, soprattutto il 27 perché era l'unico punto dove io potevo trasmettere bene con le radio così. Io baracchini ne ho avuto molto, molto pochi. Ho avuto solo baracchini quando io modulavo la Porto Torres, quindi avevo 14 anni. Poi ho sempre avuto radio di queste dimensioni qua, perché secondo me era il top, era il massimo che uno potesse avere. A quei tempi si usava molto linee valvolari, quindi sto parlando della 7250 che ha avuto anche Antonio Lorenzio, sto parlando della 7B dove io avevo il frequentimetro esterno, quindi avevo già una radio a 40 watt che non aveva nessuno, con la scala meccanica che però sapevo operare molto bene, avevo il canale P2 attaccato lì, poi avevo comprato il canale P3, ma io ti posso dire, ma non per vantarmi, se mi metto a fare il calcolo di tutto quello che ho avuto con il 27 e in attività amatoriale, io ho preso un appartamentino di lusso, mi sarebbe uscito. E forse la cosa in più anche, tutte quelle che hai venduto e tutte quelle che hai acquistato. Beh, io mi ricordo solo la prima fiera che ho fatto, che ancora eravamo lì e mi sono partiti 6 milioni. Quindi la prima fiera che ho fatto, e ci sono testimoni, quelli che tu sai, tipo Marco, Walter, Andrea e tutti quanti, che non ci volevano neanche far imbarcare sull'aereo perché sembravamo gli lì, erano tutti quei discatoloni. Mi sono partiti 6 milioni, quindi immaginati tu, 6 milioni di allora, siamo nel 2010, fra qualche giorno, perciò ti sto parlando del 96, 97 forse, 95 adesso non mi ricordo, 93, sono due radio, mi hanno costato 6 milioni, perciò senza quelle che poi ho comprato un euro, tipo il TS2000, 2700 euro, siamo già a livelli alti. Tantissime radio ho comprato, tantissime, guarda che non viene bene neanche a dire, un po' di ricordi ce li ho, perché ti ripeto, ho le fotografie delle radio che ho avuto, ma 9.40 per me ho avuto la prima, la seconda, la terza serie, dell'8.50 lo stesso, arrivare all'8.50 ho avuto l'8.20, l'8.30 e l'8.50, l'8.20 e l'8.30 erano a scala meccanica ancora, cioè erano a sintonia con WFU, a sintonia continua, però erano con la telefonale a valvola. Ricordarmi tutte le radio è una cosa pazzesca. Vedi, una cosa del genere mi sarebbe piaciuta farla adesso, ritornare indietro, man mano li sto recuperando come a 4.30, le mie linee valvolari ce le ho sempre, qualcuno l'ha recuperata ancora, però mi sarebbe piaciuto avere ancora più di quei ricordi lì, capito? Ma purtroppo non si trovano più fra. Sì, qualcuna, diciamo così, qualcun altro ha già la becca ancora di quella radio lì, di vecchia epoca, solo che se ne fanno pagare un bel di soldi. Bisogna trovare sempre radio che funzionanti, magari. di come le mie radio sono, tu sei forse quello che frequenta di più questa casa, delle persone che conosciamo entrambi, e vedi come io lavoro con le radio, come le tengo e nel modo in cui soprattutto li uso. Perciò fra e come di casi di te, quindi la stessa cosa. E ci vuole una grande attenzione, grande pulizia, perché le radio fanno parte di un sistema molto bello che se però le tieni in condizioni pessime, con l'andare del tempo ci butti tutto, mentre invece vanno tenute in una maniera tale da far sì che le radio siano sempre belle ordinate. Perché se tu hai visto il Sommercan che ho io, quello è datato 1977 ed è come il giorno che è uscito dalla fabbrica, quella è la vernice sua originale. Sì, sì, ma già l'ho visto. Non già l'hai visto, ma le tengo io le cose, quindi non c'è bisogno di dirlo neanche qua. E sono pignolo nelle mie cose specialmente, mi piace la roba tenuta pronta, ordinata, specialmente pulito bene, sistemato, come deve essere fatto. Lo so, c'è un video però, che non sei buono a fare il falegname tu, perché la scrivania te l'ha fatta Dio Spagliero. Beh, quello senza un breve dubbio, anche perché io lo stavo buttando via quel piano lì, quindi ho detto tanto non ne faccio niente. E la fortuna è stata che c'era la cassettiera, vedi? Quella era un'altra cosa che era da adeguare alla scrivania e c'è andata benissimo. Con i piedi uso, non sembra comprata questa scrivania, anche che non la trovo una scrivania grande come questa, eh. E quello era un piano, un altro dell'armadio qua. Se mi ricordo, la volta che appunto lui, ma la Franco l'ha fatto sul piano, come? Ma tu non li parli? Ho detto sì, ho manchetto, mi ricordo, perché hai detto, ma tu fai viaggiare, aiuto, non vedo tutto fare la scrivania, e i piedi sono da prendere io, ce l'avevo a casa pienamente. Ho fatto una bella scrivania, beh, perché il piano d'appoggio ha sfruttato l'asse, l'interasse del piano della cassettiera, e poi andando in dentro con la misura di entrare abbiamo praticamente fatto lavorare i piedi in verticale come appoggio. È venuta una bella cosa. E beh, ti ricordo di quella che mi avevo fatto io a Carbonate, quella me l'ho tutta disegnata io, ho fatto io, e lo sportellino con il piano all'interno dove c'erano gli alimentatori, i ventilati, non si volevano accidenti. La cosa del computer, il computer monitor in alto, i cavi tutti dietro, e lo scorrevole, anche quello ho fatto io, lo scorrevole, sai, quello l'ho dato a te, quello l'ho fatto io, mica l'ho comprato. Vabbè, ma qua c'è un bel lavoro che hai fatto, di uso alla grande, non c'è, però si può fare quel discorso che ho detto, ma non puoi fare così, e così c'è spazio ancora di più. Quando lo vuoi fare, per me non c'è nessun problema. Io ho tutta l'attrezzatura che ti serve. Non dobbiamo comprare niente. In garage ti ho detto ci sono. Ne avevo tre di scrivanie, porta computer, proprio porta PC. Chiamo lavoro, con cassettiera, tutto, eccetera. Ce n'è altre due giù, di cui una l'hai già vista. Mi ha detto proprio domenica che abbiamo scemato la notte. Ma per questa scrivania, ma per questa è quella che c'era su. A piacere, mi ha detto, no, quella lì. Quella è girata al contrario. Dall'altra parte c'è il cassetto, dove ci metti tutta la roba dentro, io ci mettevo tutto dentro. Capito? Ti prendi quella lì, ed è bellissima. C'è già la sedia, la sposti, e fai un piano di lavoro per il cavo di su adesso. E tu lì stai meglio perché lavori molto meglio. Beh certo che sì, a parte che illumino tutti questi cavi che tu hai visto, sono tutti i cavi di computer. Che cosa illumino? Tutti questi cavi che tu vedi, questa unità da qua deve sparire. Non si magari deve sparire tutta quella roba fra. Perché già c'è il monitor da 19 che ti crea un sacco di. Ti prende un sacco di spazi. Quindi mettendo il monitor 19 su quella scrivania là è bellissimo perché è molto largo, le due colonnine vanno a fianco al monitor, la tastiera va faccia al monitor. Lui cava in terra col che c'ha il suo carrellino, porta unità, e non si vede nessun cavo, perché te lo faccio io, non si vede nessun cavo, zero sotto zero. La presa già ce l'hai a fianco a quel divano letto, perciò cosa cambia? Non cambia assolutamente niente, viene un lavoro fatto bene. Due prese ce ne sono, una a parte una all'altra, a 2 metri una rispetto all'altra, capito? Ci sono due prese, io ho fatto due prese io. Perché io ho fatto quel discorso lì perché volevo trasportare appunto la stazione là, e invece poi non è stato fatto, è stato fatto qua, e tutto via dicendo. Se no io la stazione era quella, lui trasportata là, ah, va bene così, ma lascialo qui. Al limite l'unità e il monitor ce la porterà in quella cassettiera del tutù, e poi guarda il computer, poi c'è il sub, lo stesso che dietro il monitor che tu hai visto, tutta la roba lì, poi il router della grattiscia si può mettere anche là, infatti tutto sì, si può fare tutto, si può fare proprio tutto. Questo paravano di fisici che hai visto dietro sono tutti fini di computer. I fili dell'unità, i fili delle sub, i fili del router, i fili del monitor, i fili delle casse, cioè ce n'è un casino c'è qua dietro. Ti fascetto tutti come ho fatto io e tu non vuoi assolutamente niente da me. Io li ho fascettati, li ho fascettati e li ho entrati dentro un corrugato da 8 e tu mi dicevo questo corrugato che tra l'altro è bianco e si confonde col muro, non si vede assolutamente un cavo, niente, nulla di niente. Il buffer tu lo metti sopra l'unità come c'ho io, sotto la scrivania, in modo che hai la possibilità di accenderlo e di spegnerlo come faccio io, e le casse, le colonnine così chiamate del computer rimangono a fianco al monitor, come devono andare in tutti i computer. La tastiera faccia al monitor, basta. Non ti giri, puoi allungare tranquillamente le gambe, non hai fili in mezzo ai piedi, non hai niente. E lavori da Dio alla grande senza nessun problema a farlo. Quando lo vuoi fare, con me me lo dici e noi lo facciamo tranquillamente. Addirittura io ho anche con le canalette bianche, con le canalette da 4 cm in larghezza e 2 cm di profondità. Si mette con la canaletta lì e si elimina anche tutti questi fili che ho qua. E non si vede niente completamente. Ma anche i fili si possono eliminare tranquillamente, non cambia nulla. Non cambia assolutamente niente. Io quando ci lavoro su queste cose sto molto attento. Misuro, faccio, tiro, mollo, hai visto le calate che ho fatto nell'impianto luci. È venuta una bellissima cosa, ho eliminato tutte quelle lampade, lampadine. Benvenuto non come lavoro, c'ho l'accendi spinti da sotto le scrivanie, non si vede niente, non è niente mentre piedi, e bisogna progettare bene le cose, non perché io sia Archimede, ma mi piace fare queste cose, anche il mio lavoro sto sempre facendo, vedendo, copiando soprattutto da chi le ha fatte prima di me le cose. E queste sono tutte cose che ho visto, le ho fatte in radio, soprattutto sulle radio riviste, anche quando te ne vuoi prendere un po' di radio riviste non so più dove metterle, ma ci arriva anche quella lì. In gennaio, a fine mese, sono pubblicato le radio riviste, noi caro tu a riparare di queste e di queste nell'aria e i miei amici ti mandano a fare radio rivista, se io le scatto le pie, non so più dove metterle. Fatti di nuovo tutti dentro una cascetta e bu. Sì, sì, le sfoglio guardando, magari così cercando se ci sono cose che mi possono interessare, poi te la curo, ma non le leggo mai, non ho visto, guarda, c'è quella del di dicembre che mi sto guardando da qua nella libreria qui, tu immagini che c'è ancora il nero, no? neanche tolta. Guardi, mi arrivavano le cose, le riviste dei cacciatori, ogni mese uno, è una cosa incredibile. Prima, infatti, poi la fine di queste riviste non servono a niente. Le sfoglio, sezioni, adesso si può mettere quella del gennaio con i punti, i punteggi che hanno fatto le varie sezioni, con le sezioni in 40-80, quindi guardi quello, dai un'occhiata di altre cose che ti possono interessare e poi basta, poi c'è qui non mi interessa neanche quello più, mi sono stufato anche di avere tutte queste cartacce, già ne ho di libri, c'era un po' lì addirittura mandavano anche il libro il formulario ogni 3 mesi, quello dei geometri, poi gli ho fatto detto, ma mi mandato di e ci abbiamo anche parecchi di quelli, se non mi devo buttare ciò anche di cartaccia. Ecco, una volta lo guardo non è fatto niente, capito? E io una volta sai le cose quella lì attimo non mi ha fatto niente. Però lo sai, sono cose belle da vedere. Sono cose belle da vedere, ma sono delle novità, ultimamente c'è so che c'erano delle cose interessanti. Però io quelle soprattutto le sfoglio, vado lì nei mercatini, nei vari quelli che sono poi tutti i siti, tutte le cose, visto per avere uno sconto anche al computer, guardare, fare, ma se no è una cosa che mi interessa più di tanto. Certo, è così. Buttati poi cosa fatta con me durava più di più. E in più ce li buttavano così in questi programmi qua, capito? È quello che dico io. Ma Franco, che quelli stanno lì dentro sono pagati lo stesso, Non pensare che non sono pagati, Quelli sono pagati, hanno un tanto al giorno, che le depositano in un conto a parte. Quando esci da lì, questi poveracci fanno 5 mesi quest'anno, Non fanno più 3 mesi, fanno 5 mesi. Hai capito? Sono 5 mesi lì dentro. Per 5 mesi Mediaset paga tutta questa gente per stare lì a fare che cosa? A fare cagate, a far vedere al mondo, a tutta l'Italia, non al mondo, a tutta l'Italia, come si vive dentro una baracca del genere, in mezzo a un bingo che io non sarei stato neanche 5 minuti. Se quando inquadrano le camere da letto c'è da metterci le mani in testa, mutande, calze, scarpe, tutti lampati a destra e a sinistra. Io non ci avrei vissuto neanche un minuto, perché sarei stato bisticciando dalla mattina alla sera, solo per il bisogno che c'è. E la mandro mia che va in alto, ci va un docco per fare i biatti, per lavare in terra. In effetti è così, sì, in effetti è così. È stato a parlare di altro, ma non è che roba si vede il culo, scusate la frase. È un sottume, guarda, non voglio essere volgare, ma è proprio una cosa schifosa che a me, io non la guardo proprio per quello, capito? Perché forse sono abituato a lavarmi spesso e volentieri, a cambiarmi spesso e volentieri. A casa mia si può mangiare per terra, perché io se vedo una cosa mi incazzo subito. Voglio ordine, voglio pulizia, tu lo sai, no? Come te. Ma immaginati a me lì dentro, ma fa caridare. Ma poi tutta gente che non sa fare niente. Ho visto quando è domenica che è capitato, allora il pranzo che danno con lo stacchetto di 10 minuti del pranzo di Natale, ho visto questi due imbecilli condendo questi ravioli con questo sugo che si vedeva alla televisione che era acqua. In pratica ci hanno buttato prima i ravioli dentro il sugo, li hanno fatti consumare assieme al sugo, poi li hanno bucati a uno a uno e li hanno conditi con il sugo. Ma per favore! Ma per carità, tutta gente non sa cucinare quella lì. Non si sanno fare un uovo fritto, non si sanno fare un uovo fritto. Ma stai scherzando, a me piace moltissimo la cucina, io lo sai, no? Che mi metto spesso ai fornelli anche a te. E quindi andare in un reality del genere per me sarebbe proprio una sopravvivenza a livello naturale, no? come che sia a casa. Ma il problema è la pulizia, cioè non si lavano, non si puliscono, sono tutti gli altri dei bingi logi, solo quando c'è il lunedì che c'è la trasmissione, tutti escono cambiati, infatti è uscito con la ragazza l'altro giorno, oggi non l'ho visto neanche, lunedì scorso, sempre così, guardando il passaggio, con questa gonna che manco mia suocera la mette più, cazzo, ma non si vergogna. No, una cosa incredibile, roba la chiudi, roba la chiudi. Ma cosa vuoi che dici a Claudio? Un casino sta diventando questa televisione. Ma là ci sono queste TV private adesso, adesso dico questo. Tu fai parlare la RAI perché è la RAI, devi parlare, RAI 1, RAI 2, RAI 3. Cosa guardi su RAI 1, RAI 2, RAI 3? Quando ti metti a guardare tutti gli altri programmi su radio private, su TV private. È una vergogna, capito? Solo che purtroppo è una radio di Stato e c'è la TV di Stato che devi pagare. Io penso che qualcosa succeda, perché oggi con il digitale terrestre nessuno guarda più. Io sinceramente parlando guardo i telegiornali, guardo quello del primo all'una e mezza, mi guardo quello delle due su Rai 3, il regionale, e basta. Finito poi la sera mi guardo quello di Vignolina, all'ora di cena, ma non guardo altro. Poi io ho premium, quindi sto sempre in continuazione, sempre con il televisore acceso guardando film, dalla mattina alla sera. Moltissimo, quello che ho messo a te. Sto sempre lì, o su Premio Cinema o su sull'altro. Ed è l'unica cosa che io guardo moltissimo. Se poi c'è qualche film su Rai 1, come oggi che c'era quello insomma, quello molto bello, l'ho seguito anche l'altro giorno e mi ho guardato un pezzo anche qua in radio, perché c'è la TV anche qua. Però fra, alla fine dei conti i risultati sono quelli che la Rai, che cacchio la stai guardando? Nessuno, siamo assurdi, la stiamo pagando così. E vabbè, purtroppo bisogna pagarla perché è roba di Stato, quindi è bisogna pagarla. Però in definitiva non c'è molta gente che segue la Rai, sia Rai 1 o Rai 2, sì magari lo segue, si guarda sul telegiornale, poi vado, poi gira canale, perché i canali più ricercati sono canale 5, 34, Italia 1, Video Lina, qualche volta la parlate quel film anche lì, oppure su Premio Film o su l'altro come era, TV Film, roba del genere, TV Cinema c'è, è stata la giornata lì, però sulla Rai gente pochissima, ma io conosco perché c'è gente che non parla di questi abbonamenti Rai, voi non ho capito cosa faccio. Io non posso farlo perché immaginate che prima da noi, i primi anni che io avevo la licenza dell'animatore, pagavo la tassa amatoriale, poi pagavo l'UVA TV, capito? Perché la licenza che noi avevamo in allegata praticamente alla patente faceva parte dell'UVA TV di Torino. E poi invece è stata abolita e quindi quando poi c'è stata dalla lira all'euro abbiamo pagato una tassa unica, quindi l'UVA TV non la paghiamo più. Tanto è vero che io quando annualmente pagavo la tassa dovevo legare al bollettino di 3.000 lire, allora al bollettino di 3.000 lire di l'UVA TV che ti faccio vedere, l'ho ancora pagati, dovevo legare le fotocopie del pagamento della rata della televisione, altrimenti non mi accettavano il pagamento della licenza, lo sai, quindi automaticamente è disassegnato, perciò l'ho dovuta sempre pagare, perché per me non mi avrei più pagato, intanto se io non la pago mi trovano subito, mi mandano subito la lettera e rischio magari delle multe salate, quindi non mi conviene. Ma chi non la paga fa bene perché è una truffa, fa benissimo, io non posso più farlo, però chi non la paga fa bene perché è una truffa, è una cosa allucinante, cioè sono 110 euro all'anno per vedere che cosa, stronzate, dove, cosa guardi tu alla Rai, niente, non c'è assolutamente niente. Posso dire che vanno allo Stato? Certo, tu immaginati, tutti gli edifici che vanno allo Stato. Quanti abbonamenti Rai ci sono? Perché ti ripeto, prima c'era anche l'abbonamento per la radio, che si chiamava Ular TV, dove io pagavo l'abbonamento alla televisione, in più le 3.000 lire all'anno dovevo pagare questo bollettino di conto corrente all'Ular TV, ma tutti i radioamatori, tutti, in tutto il mondo, capito? In tutto il mondo. Quindi immaginati tu cosa incassavano. E poi hanno tolto questa tassa della radio, abolita così questa Ura TV, pagavamo solo la tassa di concessione governativa per l'uso e il possesso delle stazioni radioamatoriali. Però immaginati tu che Antidinassi bigliava da una parte e dall'altra. Un casino di soldi, un casino di dinero. Guarda qua, io lo chiudo, capo la giornata, a questo. Ecco c'è la foto, 23.55, io faccio 22 gradi, e via, sto scattando 29, dicembre 28 ancora, fra 5 minuti scatto 29. Ok, fra, perché che data ce l'abbiamo fatta anche oggi, spero di non aver annoiato nessuno. E ci c'è così. Ok, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo domani. Ricordati, senza dimenticarti quei documenti, se no, Io domani mattina devo uscire, mi riporto appresso, se c'è Teresa li rilascio lì, altrimenti te li imbucco nella cassetta postale, se mi aprono, se non fai come voi. Vabbè, vai, come preferisci, tanto non c'è anche quella roba da parte, quella roba che ti ho fatto, capito? Allora ci vediamo domani sera, ok? Ci vediamo, ci sentiamo domani sera, allora vai, facciamo così. Ciao, buonanotte, grazie di questo, grazie di tutto. E saluto naturalmente come educazione tutti quelli che sono ascolto e sono più alle complici. Ciao, vai, a domani, fra. Ciao, fra, buonanotte, buon tutto, saluto a casa. Saluto a circolare a tutti, anche quelli che sono ascolto, e perché è SWL. Per me, QRT me ne passo in 144.